Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12:12, nuovo appuntamento con Salva Danaio. A tutti voi un buon lunedì. Subito voglio dirvi che saremo insieme per gran parte di questa settimana, ma non vi preoccupate perché venerdì torna la legittima proprietaria di questo spazio, di questa trasmissione, quindi da venerdì Deborah Rosciani sarà di nuovo con voi. Oggi ci occupiamo di vacanze, in particolar modo ci occupiamo dei diritti per chi viaggia, dei diritti dei viaggiatori. Lo facciamo come sempre con illustri e autorevoli ospiti che ci aiutano a dipanare qualsiasi dubbio, a rispondere a tutte le vostre domande. Allora saluto, perché è in studio a Milano, la collega del Sole 24 Ore, Rossella Cadeo. Buongiorno Rossella. Buongiorno Valeria, buongiorno a tutti. Collegati telefonicamente invece abbiamo il dottor Michele Rinaldi, che è direttore generale di Global Assicurazioni. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. E l'avvocato Maurizio Di Rocco, che è specializzato in diritto dei consumatori. Buongiorno anche a lei. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vi ricordo i numeri attraverso i quali potete contattarci: 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Prima però di andare a capire meglio che cosa possiamo tirar fuori da questi diritti per i viaggiatori, e quindi un tema che riguarda ciascuno di noi, soprattutto adesso a ridosso delle vacanze, andiamo a sentire che cosa sta succedendo sui mercati. Lo dicevamo anche poc'anzi nel corso del giornale radio, andamento positivo questa mattina dei listini del vecchio continente, aiutati anche dalla chiusura positiva di Tokyo. Questa mattina il Nikkei ha chiuso le contrattazioni con un rialzo del 2,73%, grazie anche all'indebolimento dello yen. In questo momento Parigi guadagna l'1,77%, Francoforte l'1,38%, bene anche Londra che guadagna lo 0,83%. Una mattinata un po' più difficile invece per Piazza Affari, che aveva comunque aperto nelle prime battute con il segno più, ma più debole rispetto alle altre piazze, poi aveva virato in negativo, questo soprattutto per effetto dell'andamento del titolo Saipem, che anche in questo momento cede pesantemente, meno 25,76%. Questo è dovuto alla comunicazione fatta al mercato fatta a mercati chiusi venerdì, quando la società ha comunicato appunto il taglio delle stime per il 2013 con una perdita tra i 300 e i 350 milioni di euro. Soffre anche la controllante Eni, che cede l'1,72%, la Popolare di Milano cede l'1,84%, Monte dei Paschi poco più di un punto percentuale. Il titolo migliore però è Telecom Italia, che guadagna il 4,81%, TOZ guadagna oltre 3 punti, nel 2,99% e nel Green Power il 2,97%. E così da poco più di un'ora Milano è riuscita a invertire la rotta. In questo momento il FTSE MIB guadagna lo 0,56%, il FTSE All Share lo 0,38%. Sul generale ancora risulta sospesa RCS con un rialzo teorico che oltre il 30%. Ricordiamo che oggi è il primo giorno di aumento di capitale per quel che riguarda RCS. Sui cambi 1,33,35 il cambio euro su dollaro in questo momento, mentre il differenziale tra BTP e Bund siamo sempre intorno a quota 270 punti base, per la precisione 274 punti base. Chiudiamo la nostra parentesi relativa ai mercati e andiamo ad ascoltare la nostra scheda. Il sondaggio sull'estate 2013 di Confesercenti SWG attesta che ben 5 milioni rinunceranno alle vacanze, pari al 42% dei vacanzieri. Più della metà di loro, il 53%, addita la crisi come causa principale della rinuncia. Quando le vacanze diventano sempre più un lusso, cresce l'attenzione dei viaggiatori affinché tutto vada per il verso giusto. Non tutti sanno che esistono delle norme e delle polizze assicurative che tutelano i viaggiatori. L'articolo 47 del Codice del Turismo riconosce a chi ha acquistato un pacchetto turistico automatico il diritto al risarcimento oppure alla risoluzione del contratto in caso di vacanza rovinata per inadempimento o inesatta esecuzione della prestazione. Altre sentenze sul tema meritano di essere ricordate. Una del Tribunale di Reggio Emilia, che ha inoltre incluso nella lista dei danni risarcibili anche lo smarrimento del bagaglio. L'altra del Tribunale di Napoli, che ha sancito il diritto al risarcimento non solo al turista promotore dell'azione, ma anche agli altri turisti che hanno acquistato lo stesso pacchetto turistico, aprendo dunque la strada alla class action. Vi sono anche tutele per i turisti che non amano i viaggi organizzati, compensazioni pecuniarie per negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato del volo, responsabilità dell'albergatore in caso di furto di oggetti in albergo, indennizzi per ritardi dei treni. Infine, le compagnie assicurative hanno ideato delle polizze specifiche per le vacanze. Ci sono quelle che tutelano in caso di malattia, necessarie nei paesi che richiedono un'assicurazione medica obbligatoria. Altre polizze coprono il trasporto durante i viaggi e altre ancora tutelano l'abitazione da furto e incendio. Altro consumo raccomanda di non versare un centesimo prima di aver visto la casa da affittare per le vacanze e di informarsi accuratamente sull'immobile e sul suo prezzo. Il Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti consiglia di rivolgersi a professionisti seri e di conservare tutta la documentazione, senza dimenticare che anche il buon senso va messo in valigia. E allora la nostra scheda, a dispetto della musica, che comunque è una musica allegra, parte con una premessa doverosa e fondamentale, e qui mi rivolgo prima di tutto alla collega Rossella Cadeo, che è una delle curatrici di questa guida di inizio giugno, da cui noi partiamo per parlare appunto dei diritti di chi viaggia, perché quest'anno a viaggiare saranno molti meno italiani rispetto all'anno scorso. Comunque sì, quest'anno saranno meno gli italiani che si potranno permettere un periodo di vacanza, che comunque già da tempo sono sempre più corte, sempre a raggio più breve, e quindi è fondamentale riuscire a partire per le vacanze avendo un'idea ben chiara di quelli che sono i propri diritti, le proprie tutele, perché solo in questo modo si potranno evitare imprevisti o rischi o brutte sorprese che possano incidere su quella fetta di bilancio domestico assegnata al riposo estivo. E quindi, certo, alle vacanze, quindi già uno ha poco a disposizione, se poi anche quel poco viene rovinato da un qualsiasi tipo di imprevisto, insomma, è davvero amaro. Sì, non c'è riposo, ma anzi, esatto. Si torna un po' non soddisfatti, anche un po' arrabbiati, insomma. Vi ricordo i numeri attraverso i quali potete contattarci: 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri SMS. E allora abbiamo subito un'ascoltatrice che tra l'altro ci fa una domanda interessante che immagino ricorra spesso. Mary da Modena, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Mi è successo questo: a ottobre io sono stata a Sharm el Sheikh. È una struttura 4 stelle, non ero mai stata in sto albergo qui, e niente, il giorno prima di partire, di tornare in Italia, mi hanno aperto la cassaforte, mi hanno portato via $2,500, €500 e tutti i gioielli. Io e che cosa è successo? Naturalmente ho denunciato, certo, il tutto, chiamato, venuta la polizia, è venuto il direttore, tutto quanto. E mi hanno trattenuto una settimana in più per accertamenti, alla fine volevano che pagassi il viaggio di ritorno, gli ho detto no, anche dopo il danno, anche la beffa no, certo. E a quel punto niente, sono tornata in Italia e anche fatti gli accertamenti, loro volevano che io accusassi un cameriere che era di turno, ma il passepartout per aprire la cassaforte mi risulta che ce l'abbia solo la direzione. Quindi a questo punto niente, sono tornata in Italia, ho parlato con la mia agenzia, la Europe Assistance mi ha detto che non rispondeva, l'Alpitour non si è neppure degnata di darmi una risposta in merito, sono ancora qui che aspetto. Che aspetta. Allora, signora Mary, vediamo un po', perché potrebbe prestarsi a due aspetti, su questo vorrei coinvolgere i nostri ospiti. Prima di tutto l'avvocato Maurizio Di Rocco, perché la signora a questo punto si è trovata totalmente a mani vuote. Beh, direi che purtroppo sono casi abbastanza frequenti. Qui l'attenzione che bisogna porre è fondamentalmente quella che quando si hanno dei beni di particolare valore, dei preziosi o qualcosa del genere, è bene affidarli formalmente all'albergo, cioè far presente alla direzione che ci sono questi beni e affidarli all'albergo. Solo così si può pensare che poi l'albergo risponderà di quello che effettivamente gli è stato affidato. Per le e cose quindi, che vengono messe nelle cassette di sicurezza delle stanze, ovviamente diventa più difficile provare il valore di quello che effettivamente era il contenuto della cassetta e quindi diventa tutto più difficile in conseguenza. Diciamo che comunque la signora ha già il fatto di essere stata trattenuta una settimana in più per accertamenti, può essere un profilo che merita attenzione dal punto di vista risarcitorio, perché credo che non so fino a che punto la cosa poteva essere giustificata. Certo, comunque secondo lei è meglio affidarli direttamente alla cassetta di sicurezza evidentemente dell'albergo, avranno dei modi per custodire gli oggetti di valore, il denaro. In quel caso si può pretendere che l'albergo ne risponda direttamente, perché potrebbe, se fossero cose di valore addirittura eccezionale, l'albergo potrebbe anche rifiutarsi di custodirle. Pretendere che vengano messe in banca o in altre cassette. Ma se sono cose normali, tipo travel check, come si usavano una volta, o carte di credito, eccetera, è bene che l'albergo sia informato che quelle cose sono affidate espressamente all'albergatore, così ne può rispondere. Certo. Se no, purtroppo si può sempre creare il sospetto che quello che era nella cassetta non corrisponde effettivamente a quello che viene dichiarato. Certo. Allora, dottor Rinaldi, invece a lei vorrei chiedere, se si parte appunto con oggetti di particolare valore, ovviamente in questo caso non parliamo del denaro, però ad esempio gioielli, ci può essere una copertura assicurativa che si può prevedere prima di partire? Ma sì, guardi, premesso che la copertura viaggi, poi ne parleremo magari più approfonditamente, è una garanzia che copre aspetti rilevanti del rischio di un viaggio, quindi ad esempio il fatto che si abbia bisogno di un medico o si abbia la necessità di affrontare un'emergenza sanitaria. Anche le polizze viaggi prevedono anche all'interno delle diverse sezioni la garanzia bagaglio, e nell'ambito della garanzia bagaglio esiste automaticamente quasi sempre la copertura degli oggetti preziosi, ma entro un limite rispetto al capitale previsto dalla polizza. Ad esempio, se la polizza prevede un capitale di 1.000 euro, di solito i gioielli e le pietre preziose e via discorrendo vengono coperte entro il 30% del capitale. Quindi diciamo c'è una copertura, ma è una copertura comunque ridotta, una copertura parziale ovviamente, ridotta, anche perché chi viaggia solitamente non viaggia appesantito da questo genere di gioielli, ma infatti la signora Mary era sicuramente in un'altra casistica, perché lei poi ci ha detto, insomma, non ha trovato più soprattutto soldi e poi ovviamente preziosi, ma comunque soprattutto è stata derubata di una somma di denaro. In quel caso immagino che sia un po' difficile assicurare una somma di denaro. No, per la somma di denaro esiste, certamente il denaro è sempre escluso, però esiste nell'ambito delle garanzie di assistenza che normalmente sono previste nell'ambito della polizza viaggi la possibilità di richiedere un anticipo di denaro, la messa a disposizione di denaro per poter proseguire con il viaggio o poter affrontare le esigenze più immediate che si presentano. Ecco, questa è una garanzia che, contattando la centrale operativa telefonica, si può avere. Si può avere questo chiaramente tipo di possibilità. Bisogna fornire garanzie che garantiscano la restituzione del prestito, insomma. Certo. Allora, Rossella, la telefonata dell'ascoltatrice ci apre un po' l'argomento relativo a quelli che sono gli albergatori o comunque i responsabili di, non so, villaggio, perché in alcuni casi uno si può trovare in una sorta di difficoltà, perché non sempre si sa o si ha conoscenza di quelli che sono i doveri di chi ci ospita. Magari, non so, noi arriviamo, ci aspettiamo di trovare un certo numero di servizi e poi quei servizi non ci sono. A quel punto uno che strumenti ha? Sì, innanzitutto quello che è importante è cercare di sapere tutto tutto prima, prima. Di informarsi chiaramente, magari con uno scambio di mail, con una telefonata sui particolari, per avere idea di quello che si andrà ad avere sul posto. Questo per chi si organizza un viaggio autonomamente. Per chi invece aderisce, sottoscrive un contratto per un viaggio organizzato o che prevede anche la struttura ricettiva, esistono delle tutele più forti, nel senso che quello che è indicato sul catalogo e quello che si contratta in agenzia, sì, direttamente oppure attraverso le agenzie online, che ricordiamo hanno gli stessi doveri di un'agenzia tradizionale, quindi quelle con ufficio, tutto quello che è scritto va rispettato. Ciò non toglie che anche in questo caso si debbano chiedere più particolari. Una volta poi trovato qualche brutta sorpresa posto, che mi chiedo come sia possibile poi ottenere. Esatto, la prima cosa è reclamare subito, la seconda cosa è dotarsi di tutte le prove fotografiche o procurarsi della documentazione in modo tale da poter poi, una volta ritornati a casa diciamo, farsi valere per la prestazione non adeguata. Si hanno 10 giorni di tempo dall'arrivo a casa, quindi diciamo i tempi sono un po' stretti. L'importante è cercare di risolvere tutto con il rappresentante del tour operator o dell'agenzia sul posto, per avere magari un upgrading della sistemazione, e nel caso non sia proprio possibile cercare di documentare l'episodio di servizio una volta tornati a casa, per ottenere un minimo di risarcimento. Certo. Le 12:34 minuti, ci eravamo separati qualche minuto fa, qualche istante fa, parlando del periodo di tempo che si ha a disposizione per inoltrare il proprio reclamo. Allora Rossella, torniamo su questi 10 giorni, perché c'è da fare qualche distinzione. Sì, questi 10 giorni lavorativi valgono se si è scelto un viaggio organizzato. Negli altri casi c'è più tempo, ovviamente il consiglio è non aspettare troppo, anche perché l'esperienza, le cronache ci dimostrano che è sempre difficile poi ottenere un risarcimento da vacanza rovinato, da prestazione non conforme a quanto contrattualmente stabilito. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Buongiorno ad Andrea da Bergamo. Sì, buongiorno. Ci dica. Grazie. Ci dica allora, tutto. Sì, allora io ho avuto un anno fa circa, ad agosto dell'anno scorso, un problema legato a un viaggio organizzato in America, negli Stati Uniti. Avevo, diciamo, acquistato tutto tramite agenzia viaggi, quindi dagli alberghi scelti dal sottoscritto tramite internet, al discorso dei voli aerei interni e Milano, diciamo Milano, New York, eccetera. Avevo fatto ovviamente l'est, il quale mi era stato approvato. Sono arrivato a Zurigo, dove avevo la prima, diciamo, il primo stop, perché poi c'era il diretto Zurigo-New York, e non mi hanno fatto entrare sull'aereo, perché ovviamente il mio passaporto era YA00 eccetera, e io avevo segnato sull'est AY, quindi al momento mi hanno detto che non c'era nessun tipo di problema, perché l'est era un'approvazione immediata. Sì. Al che ho fatto la compilazione dell'est con gli agenti dell'aeroporto, e mi è uscita autorizzazione negata. Io ovviamente non sono partito quel giorno, ho cercato di stare 3 giorni a Zurigo per cercare, siccome ogni 24 ore tu puoi reinserire l'etta, per cercare di riagganciare quantomeno il tragitto che avevo strutturato. Sì, per essere più chiari, diciamo che è la procedura per il visto americano, così tutti sappiamo di che cosa stiamo parlando. Esatto, diciamo che dopo 3 giorni di tentativi, ovviamente poi Zurigo nel weekend l'ambasciata era chiusa, era tutto chiuso. Insomma, morale, lei ha perso il viaggio. Ho perso circa 10.000 euro di viaggio, ma ho saputo dopo che il mio passaporto, quello reale, risultava rubato dall'Interpol. Io ho scritto all'Interpol, ovviamente, come giocare contro un titano. Beh, certo, quindi... immagino. Certo che la sua storia, signor Andrea, è un po', come dire, un po' complessa, è un caso un po' particolare. Vediamo se insieme all'avvocato di Rocco possiamo trarne, come dire, delle linee generali per quando ci si trova all'estero e magari si incappa in questi problemi burocratici, perché poi qui era semplicemente uno scambio di lettere, la prima scambiata invertita con la seconda. Purtroppo queste situazioni normalmente sono situazioni, cioè quello che riguarda la compilazione dei documenti, sì, la loro validità e l'accertarsi se siano in scadenza, se siano validi o no, sono diciamo oneri che competono al viaggiatore. Diciamo che l'agenzia o il tour operator possono fornire delle assistenze, dei ragguagli, ma fondamentalmente qui poi addirittura pare che ci fosse un caso di sospetto, smarrimento, furto o sottrazione comunque di un documento che interessava l'Interpol, quindi qui sicuramente è difficile configurare una qualche forma di responsabilità, se questa era la domanda nei confronti dei tour operator. Certo. Diciamo che ecco l'importante eventualmente di affidarsi a delle agenzie, dei tour operator di rilievo quando si fanno viaggi piuttosto complessi è proprio nel fatto che quando ci possono essere situazioni di questo tipo, anche temporanee, magari si può godere di un'assistenza in loco che altrimenti organizzando viaggio da soli è più difficile avere. Certo. Quindi diciamo che spesso le agenzie e i tour operator hanno dei corrispondenti locali anche nelle, diciamo, nelle città di transito, di passaggio. Sì, sì, sì, che si possono occupare, possono certo assistere chi viaggia, chi ha scelto di viaggiare con quel tour operator. Allora, Rossella, non so se tu poi da lì riesci a vedere gli sms che ci arrivano, ma il signor Nicola da Padova, per esempio, si scaglia proprio contro i tour operator e ci dice: gli adeguamenti carburante e la modifica degli orari di partenza e di ritorno sono le più grandi truffe dei tour operator. Come ci si può in qualche modo come dire, tutelare? Mi viene in mente che forse le modifiche degli orari di partenza e di ritorno sono davvero, non voglio ovviamente dire delle truffe, ma succedono molto spesso con i tour operator. Sì, per quanto riguarda i prezzi, partiamo dai prezzi. Sì. I prezzi in realtà, se si tratta di un viaggio organizzato, non possono essere aumentati nei 20 giorni prima della partenza. Inoltre questo aumento, questo eventuale incremento, sì, non può superare il 10% del prezzo che si era stabilito e deve essere comunque indicato nel contratto che quel prezzo può subire una variazione. Quindi il passeggero che non si trovasse d'accordo, il viaggiatore che non si trovasse d'accordo con quell'aumento può comunque, magari sulla normativa ci potrà essere più preciso l'avvocato di Rocco, ha delle alternative: o rifiutare la partenza o recedere. Certo che uno si è organizzato per partire, è chiaro, certo, che il recesso è l'ultima alternativa alla quale penserà. Quanto ai ritardi di volo, sì, questi sono, il ritardo di volo è uno dei servizi, dei disagi più frequenti per il viaggiatore aereo, per il viaggiatore che fa uno spostamento, certo, sul medio lungo tragitto. E anche in questo caso abbiamo una carta dei diritti dei passeggeri che pone dei precisi paletti, degli indennizi e delle forme di assistenza obbligatorie dovute al passeggero in caso di ritardata o cancellata partenza. È una carta che è disponibile in ogni aeroporto, ma anche su internet al sito dell'ENAC. Anche in questo caso le cronache ci dimostrano che comunque sì, non è così facile ottenere il riconoscimento di un delitto calpestato. Abbiamo dei racconti, soprattutto estivi, relativi ad alcune estati, di passeggeri, sì, rimasti fermi in aeroporti, esatto, abbandonati totalmente a loro stessi. Insomma, quando si crea appunto questo fenomeno dell'overbooking o Sì, certo, ci sono sono delle problematiche legate soprattutto ai mezzi di trasporto, e magari tra pochissimo ci torneremo con l'avvocato Di Rocco, perché non riguardano solo gli aerei ma anche i traghetti. Abbiamo delle testimonianze anche degli anni scorsi, insomma di varie problematiche. Prima però vorrei con il dottor Rinaldi fare una velocissima panoramica sulle possibilità di assicurazione, perché uno potrebbe assicurare il proprio viaggio dalla A alla Z, oppure ad esempio scegliere quali sono gli aspetti che preferisce tutelare di più e quindi magari costruirsi proprio un'assicurazione fatta su misura. Sì, allora per in generale le persone che affrontano un viaggio e un soggiorno, sì, soprattutto diciamo all'estero, in paesi dove i normali riferimenti vengono a mancare, esistono dei pacchetti preconfezionati e solitamente abbinati nel viaggio dal tour operator presso il quale si acquista sì, il viaggio, il soggiorno, però spesso queste garanzie non sono esattamente la copertura che il cliente acquisterebbe, sono coperture molto di base e quindi è consigliabile che il viaggiatore sì, si informi bene, si documenti bene, che certo, riceve, e poi valuti l'integrazione delle coperture di base con ulteriori garanzie. Chi non acquista invece il viaggio presso un tour operator naturalmente deve ricorrere ad attivare una copertura, una polizza viaggi individuale, e quindi deve personalizzarsela completamente. Le garanzie più importanti da acquistare sono le garanzie che noi ricomprendiamo nell'ambito del termine assistenza, cioè sì, esiste, viene messa a disposizione nell'ambito della polizza un numero verde o un numero normale da attivare all'estero, che pone in contatto in caso di necessità il cliente con la centrale operativa di assistenza, mm-hmm, che eroga le prestazioni 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Certo. Quindi la prima raccomandazione che io faccio è questa: acquistare sempre la garanzia di assistenza e con essa anche la garanzia spese mediche, sì, e tenere in evidenza il numero della centrale operativa da contattare in caso di necessità. Sembra banale, ma non lo è, nel senso che spesso uno acquista una polizza ma poi nel momento del bisogno non sa cosa fare, quindi certo, non ha il numero telefonico da contattare per attivare l'assistenza. E cosa succede normalmente? Che il cliente, contattando il numero di telefono che viene riportato nell'ambito della polizza, sotto la voce centrale operativa attiva un pronto soccorso. Sì. Le centrali operative naturalmente delle compagnie italiane sono in prima battuta in Italia, ma poi a loro volta, certo, attivano centrali operative anche in ogni parte del mondo, sì, e quindi sono in grado di reperire un medico, attivare un trasporto sanitario, fornire consulti medici telefonici di prima assistenza, reperire medicinali urgenti, certo, e via discorrendo. Quindi tutto ovviamente ciò che serve, certo, fornire quell'assistenza, ecco, proprio nel termine stesso che uno si aspetta quando sottoscrive un qualsiasi tipo di polizza. Le 12:47 minuti, ultima parte di Salva Danaio, e allora do subito la linea a un ascoltatore, Federico da Forlì, buongiorno. Federico? Buongiorno. Eccoci, ci dica tutto. Il mio episodio risale a qualche anno fa, quando, in occasione dell'eruzione del famoso vulcano islandese. Io mi, sì, trovavo in Brasile, in un villaggio, con le mie figlie. Sì. E niente, ci comunicarono praticamente il giorno prima del rientro che, a causa appunto di questa eruzione vulcanica, ovviamente tutti i viaggi di rientro erano bloccati. Ok, fino lì, sì, niente di male, perché era un'emergenza. però passati un paio di giorni nessuno alla nostra richiesta ci sapeva dire quando saremmo rientrati. A quel punto, visto che il tour operator, cioè gli addetti del tour operator nel villaggio non erano in grado di darci una risposta, io ho fatto mail direttamente all'agenzia da cui avevo acquistato il viaggio, chiedendo appunto di avere notizie e ragguagli in merito, e nessuno mi ha risposto neanche via mail. A quel punto io mi sono sentito autorizzato a cercarmi dei voli e ho pagato il biglietto a me e alle mie figlie e siamo rientrati in Italia praticamente dopo 3 giorni, pagando la cifra di 3.000 euro. In più ho pagato anche quei tre giorni in più all'albergo, certo. Al villaggio dove sono stato, sì. Nonostante loro mi avessero costretto a rimanere lì, nonostante che avessimo prenotato e pagato per 4, poi all'ultimo momento uno delle persone non è potuto venire e quindi avevo pagato anche 1.000 euro che non mi sono stati rimborsati, quindi anche oltre il danno alla beffa. Certo. Io ho fatto richiesta all'agenzia e l'agenzia ha sempre rifiutato di riconoscermi i soldi del volo che io ho dovuto prendere per entrare in Italia. Allora, io giro subito questa sua esperienza, questo suo racconto all'avvocato Di Rocco per capire se l'agenzia ha, come dire, il diritto in questo caso di rispedire al mittente la richiesta del signor Federico. Allora, diciamo che l'esperienza dell'ascoltatore è particolare perché riguarda situazioni che ovviamente, delle quali in linea generale le agenzie non sono responsabili, certo. Eventi meteorici, cose di questo sì. Tipo. E detto questo, nel caso specifico andrebbe approfondito il perché dell'eventuale ritardo da parte dell'agenzia nel riproteggere i passeggeri su altri voli. Ecco, se questo fosse configurabile, cioè se il viaggiatore vede che tutti i suoi compagni di viaggio magari con altre agenzie ripartono sì. E lui rimane là, giustamente qualche domanda c'è qualcosa che fare. Non va, ovviamente. C'è qualcosa che non va. Quindi è un dovere dell'agenzia riproteggere il passeggero e farlo anche con una certa certo. Tempestività. Se questo fosse accaduto, è ovvio che sì. Il diritto ad avere un rimborso almeno parziale di quello che si è dovuto spendere c'è sicuramente. E in occasioni di questo tipo mi sento di poter dire che comunque è buona norma contattare i numeri del Ministero degli Esteri quando ci sono situazioni di questo tipo dovute a calamità naturali o quant'altro, certo. Mette normalmente a disposizione dei numeri verdi e dei contatti per poter gestire al meglio situazioni di questo genere, anche facendo fronte a quelle che possono essere le necessità alberghiere dei passeggeri italiani che si trovano bloccati. Che si trovano all'estero bloccati da questi eventi, ecco, certo. Esistono dei numeri verdi che è opportuno sfruttare, insomma, perché il nostro Stato dà comunque una certa collabora a dare riprotezione ai viaggiatori italiani quando certo che sono bloccati per calamità di questo tipo. Corrado da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, il mio caso è questo. L'anno scorso mi sono recato a Nicotera Beach, in Calabria, perché sui depliant c'era scritto che c'era la veleria. Sì. Allora, io l'anno scorso avevo 68 anni e ogni anno la mia età vale un secolo per certi sport. Sì. Quindi io ho chiesto espressamente se c'era la veleria, windsurf, catamarano. Perché barca voleva? Vela, mi ha detto di sì. Sono arrivato lì, non c'era niente. Mi sono rivolto al direttore e mi ha detto che c'era un'ordinanza della capitaneria del porto di Gioia Tauro che vietava. Naturalmente mi sono recato a piedi a Gioia Tauro e a Nicotera Paese per verificare di persona. Verificare, mi hanno detto che era un'emerita balla. Bene, era una balla. Allora, signor Corrado, io giro anche in questo caso la sua esperienza di vita, la giro invece alla collega Rossella Cadeo, perché questo è uno di quei casi in cui uno arriva, si aspetta un servizio e quel servizio non c'è. Sì, questo è uno dei classici casi che dovrebbe meritare un risarcimento e forse, non so, a questo punto passo la palla all'avvocato Di Rocco, anche un danno da vacanza rovinata, anche se sono sempre compensazioni che non è facile ottenere. Però in questo certo. Caso c'era un contratto scritto, la prestazione è assolutamente diversa rispetto a quella concordata. Avvocato Di Rocco, che cosa avrebbe potuto fare o che cosa forse può fare ancora il nostro ascoltatore? Allora, sicuramente lì si applica l'articolo 43 del Codice del Turismo che prevede che il diritto al risarcimento del danno quando c'è un inesatto adempimento da parte del tour operator o dell'albergo, sì. Quello che è rispetto ai servizi promessi o pubblicizzati. quindi se gli era stato promesso, gli è stato pubblicizzato all'ascoltatore che c'era quel determinato servizio e non lo ha trovato, questo di per sé costituisce un danno che dà diritto a un risarcimento. Certo, tra l'altro non so se è un aggravante, ma in questo caso il villaggio ha anche adotto una scusa palesemente falsa, quindi non so. Diciamo che ecco, sicuramente dal punto di vista morale è un aggravante, certo. Dal punto di vista civilistico poi è tutto da vedere. Comunque da questo principio, cioè del diritto al risarcimento, poi si passa alla valutazione in sé del danno e indubbiamente qui va valutato anche l'aspetto disciplinato dall'articolo 47 dello stesso codice, che è il danno da vacanza rovinata, il quale presuppone semplicemente che sia stato leso quel diciamo diritto del viaggiatore a godersi un periodo di benessere psicofisico che è dato dalla vacanza. Quindi è ovvio che nel caso specifico, proprio perché questa attività era un'attività voluta, cercata, perché fonte di benessere, il non averla potuta svolgere di per sé rappresenta un danno, la cui entità potrà essere parametrata dal giudice o con riferimento alla spesa che è stata fatta o anche con riferimento ad altri aspetti di carattere puramente morale, cioè come un danno non patrimoniale. Certo. Quindi potrebbe avere anche, voglio dire, un valore superiore a quello del costo del viaggio, in teoria. Allora, io vi leggo velocemente un sms che ci è arrivato da un ascoltatore da Milano. Viaggio di ritorno anticipato di un giorno, giorno che il tour operator non vuole rimborsarci in quanto dice che è possibile da contratto. Io però ho pagato 7 giorni e non 6. È una truffa, anzi ci scrive l'ascoltatore, che truffa è? Rossella, proprio una notazione, ma una battuta da 10 secondi sull'importanza di leggere bene tutto quello che c'è scritto nei contratti che sottoscriviamo? Sì, assolutamente sì, leggere nei minimi dettagli anche le clausole scritte in piccolo e piuttosto portarsi a casa il contratto e leggerselo e con calma. Analizzarlo bene. Grazie ai nostri ospiti Rossella Cadeo, l'avvocato Maurizio Di Rocco, il dottor Michele Rinaldi. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.